già dall'autunno, ma se volessimo trovare un po' di date è dalla notte di Capodanno, avrete probabilmente letto, insomma, le aggressioni con molestie sessuali in Piazza Duomo. 10 giorni dopo, una serie di fatti in dei quartieri popolari, nello specifico San Siro, che è interessante perché è il quartiere che già la primavera scorsa finì all'interno, come dire, di disordini fra ragazzi del quartiere, giovani adolescenti del quartiere, forze dell'ordine. Vi ricorderete le scene in cui, mentre, diciamo, gli entravano dentro casa, filmavano, facevano le storie su Instagram e via discorrendo, e c'è stata una lunga sequela, diciamo, di questi casi, con anche titoli giornalistici come la baby gang di Valentino, la baby gang in trasferta. C'è stato un poliziotto della polizia locale filmato mentre sostanzialmente gli veniva sottratta l'arma da fuoco una notte, lui era in servizio antivandalismo, i ragazzi prendevano questa pistola, poi la buttavano a terra e scappavano, tra l'altro parlando in tedesco perché non erano di Milano ma erano del Sud Tirol, dicendo una cosa tipo chiamate la polizia. Quindi insomma una serie di casi anche ambigui, nel senso che probabilmente non avevano capito che si trattasse di un poliziotto. Questa è un po' la discussione. Questo a livello di cronaca, si sta facendo un gran parlare, si parla di emergenza baby gang, la procura dei minorenni. Ieri su Repubblica è uscito un'intervista al capo del servizio centrale anticrimine della polizia, che parla delle varie città d'Italia citando dei dati, un aumento di denunce, un aumento di arresti. Dopodiché c'è in realtà una sorta di trend storico che va avanti da 20 anni e che dimostra che questo allarme non esiste da un punto di vista numerico, nel senso che i numeri sono più bassi di quelli che erano per esempio 10 anni fa, ecco. C'è una parte sicuramente anche di costruzione, ma vorrei capire se è una costruzione mediatica, giudiziaria o politica. Probabilmente, diciamo, è un mix. Al momento mi sembra che siamo fermi all'aspetto puramente mediatico, molto legato, se ci fate caso, alla questione del post-Covid, del post-pandemia, la salute mentale dei ragazzi legata alle conseguenze, diciamo, magari della chiusura delle scuole, via discorrendo. Si fanno anche delle ipotesi, devo dire, molto semplicistiche, cioè ieri il capo dell'anticrimine in questa intervista, diciamo, c'erano interi passaggi che dedicava alle responsabilità del web o di internet, qualunque cosa poi significhi, nel senso che su internet ci viviamo e ci lavoriamo un po' tutti, non solo gli adolescenti ormai, ma soprattutto, diciamo, anche volendo prendere in considerazione la generazione nata negli anni zero, che vive soltanto su internet, che ha vissuto soltanto a contatto con gli smartphone e via discorrendo, tutte queste cose. In realtà le pubblicazioni scientifiche che abbiamo a livello internazionale, io personalmente ho chiamato anche, diciamo, un professore che è un luminare di psicoterapia dell'adolescenza, dicono che la generazione nata e cresciuta su internet è molto meno violenta di quelle che l'hanno preceduta, è molto più infelice, se volessimo usare, che è un criterio, diciamo, che scientificamente andrebbe anche pesato, però dicono che sia molto più infelice, molto più nichilista, compie atti di autoviolenza su se stessi, e questo per esempio è un fenomeno che in pandemia è sicuramente aumentato, e basta chiamare in particolare le comunità per i minorenni, quindi anche le comunità dove i minorenni vengono messi, diciamo, in esecuzione penale all'esterno invece che negli istituti detentivi e via dicendo, per scoprire che in questi mesi ci sono stati casi di autolesioni, tentativi di suicidio, io ne conosco diversi qui alle porte di Milano, di strutture di questo tipo. Quindi, come dire, bisognerebbe un po' forse ricontestualizzare, anche perché si ha sempre la sensazione, visto che sia i direttori dei giornali che i capi delle forze dell'ordine, della magistratura, delle procure, tendono ad andare, diciamo, sopra i 50, ma diciamo anche sopra i 60 anni, che sia un po', come dire, la solita mitizzazione di un passato brillante in cui invece sulla strada si imparava il rispetto, queste cose qua, perché si sono letti anche commenti di questo tipo, che però non hanno nulla a che fare con i numeri. Cioè, giusto per essere precisi, questo capo dell'anticrimine citava 25.000 denunce e arrestati nel 2021, ed è il primo dato che abbiamo sul 2021, perché di solito, come dire, c'è sempre uno scarto temporale di un paio d'anni prima che si possano elaborare. Bene, nel 2011, dati Istat, i minorenni che entravano nei circuiti della giustizia italiana erano 37.000, di cui 17.000 poi venivano archiviati, peraltro, che non è una cosa esattamente irrilevante, nel senso che l'archiviazione, o per tenuità del fatto, per mancanza di prove, o perché non sei stato tu e via discorrendo, è una parte fondamentale della giustizia, però, e soprattutto erano quasi 30-40% in più del dato citato ieri. Certo. Se voi prendete le statistiche a livello internazionale, tutto l'Occidente, negli Stati Uniti, nella fascia di età 12-17 anni, in 10 anni i reati dei minorenni sono diminuiti del 50%, e sono tutte cose pubbliche, volendo, non nessuna ricerca particolarmente. Insomma, quindi varrebbe un attimino la pena forse di ricontestualizzare, senza sminuire il dolore che magari certe fasce di età, soprattutto a livello psichico, stanno subendo o hanno subito nel corso degli ultimi 2 anni, anche a causa della pandemia, della chiusura delle scuole e via discorrendo. Approcciare il tema come problema di ordine pubblico, nonostante i dati che ci hai appena citato, potrebbe anche essere un modo per non prendere mai in considerazione invece la questione sociale e, come dire, anche la privazione di aspettative per il futuro che hanno questi ragazzi? Intanto sì, facciamo anche una riflessione un po' più ad ampio raggio. Approcciare quasi tutti i problemi che sono politici in Italia con formule, diciamo, o direttamente di ordine pubblico. Qui a Milano, come dire, la risposta del nostro sindaco è stato: noi assumiamo 500 agenti in più della polizia locale, spero che la ministra Lamorgese ne assuma altri 500 nella polizia di Stato, così facciamo 1000. Dopodiché sono 10 anni che abbiamo i militari per le strade dell'operazione Strade Sicure, come immagino anche nelle altre città d'Italia, e nessuno che ha mai fatto un bilancio di questa operazione, cioè uno, quanto è costata, due, ha fatto diminuire i reati o gli eventi che in qualche maniera possono scuotere l'opinione pubblica, perché sono anche cose che vanno dette, sono 13 anni che ci sono i militari ai blocchi nelle strade e non si sa, nessuno ha mai fatto un bilancio. Diciamo che c'è sempre questo tipo di approccio, tanti problemi politici in Italia si risolvono con il codice penale, come dire, è il trentennale di Mani Pulite, quindi mi sembra anche che si possa tracciare una serie di paragoni rispetto a questo. È un modo un po' per non assumersi la responsabilità e poi diventa anche un modo per fare un po' di, come dire, pressioni, direi, su differenze di classe, mettiamola così, nel senso che quando poi le misure per contenere questo tipo di fenomeni diventano il DASPO, poi, oppure ti levo il permesso di soggiorno a te, a tuo padre, via discorrendo, colpiscono un certo tipo di segmento sociale. Dopodiché sempre i dati dicono che la violenza dei minorenni è abbastanza trasversale in realtà ai segmenti sociali, tutto questo giochino, le periferie, le seconde generazioni, è parzialmente vero, ha dei fondi di verità, ma per esempio la violenza intrafamiliare, cioè dentro i nuclei familiari, soprattutto se c'è soltanto un genitore, non ha ceto sociale, non so come dire. Quello che dicono gli psicoterapeuti è che sono persone anche assolutamente provenienti da classi abbienti, che derivano da altri tipi, come dire, di strutture sociali e familiari che nel corso del tempo sono andate creandosi nei nostri paesi, ecco.